Allora, ti stavo parlando del libro di Joe Dispenza, Evolvi il tuo cervello. E qui ci sono alcune pagine che sono fondamentali, dovrebbero essere veramente conosciute da chiunque, perché le idee che abbiamo su come funziona il nostro cervello e la mente che si serve del cervello in gran parte sono sbagliate. E quindi sarebbe quando vogliamo cambiare qualcosa di noi stessi, è come se volessimo mettere le mani dentro un computer, ma senza sapere come si fa. I risultati non possono che essere deludenti. Il fatto che varie volte le cose non funzionino non significa che il computer non può essere cambiato, significa che non sappiamo come si fa. Questo è un principio. Allora, ti avevo detto prima che uno dei principi ormai chiari delle neuroscienze rispetto al pensiero è che ogni pensiero cambia la nostra fisiologia. Cioè, il pensiero ha una base materiale, ha un peso. Cioè, ogni pensiero non è solo un percorso elettrico all'interno del cervello, ma è uno scaricarsi di sostanze chimiche, di produzione di sostanze chimiche, biochimiche e cascate di neuropeptidi che vanno in tutto il corpo. E ogni pensiero quindi che cosa produce? Produce, in conseguenza di queste sostanze chimiche, che alcuni chiamano sostanze informazionali, produce delle sensazioni. Fase 1, quindi pensiero, produzione di sensazioni. Se è un pensiero positivo, le sensazioni sono piacevoli, se è negativo, saranno spiacevoli. Fase 2, il cervello continuamente monitora il corpo. Perché deve rendersi conto se mi sta per pungere una vespa, se ho un arto in cui mi sto facendo male, così via. Quando ci sono delle sensazioni, il cervello le registra regolarmente, le registra e poi le interpreta. Interpreta come? Con dei pensieri. Se ho delle sensazioni negative, il cervello, se non trova la causa comunque, cerca di darne una con un pensiero. Questo pensiero normalmente è negativo. Ti ho descritto in breve quello che è l'inizio di un loop, pensiero negativo, emozione negativa, emozione negativa, pensiero negativo. Ora, che cosa si insegna? La prima regola numero uno del buddismo è imparare a osservare se stessi, i propri pensieri, le proprie sensazioni, rimanendo in pace, in posizione di neutralità. Cosa vuol dire? Sapersi disidentificare. Disidentificarsi vuol dire che si interrompe il loop di base. Pensiero, sensazione, sensazione, pensiero. Normalmente invece cosa facciamo? Diamo credito alle nostre sensazioni, ai nostri pensieri e cominciamo a ragionare su quelli come se fossero dei dati di realtà. Aggiungo che in questo libro è una cosa molto bella come viene descritta, dice che i pensieri ricorrenti su di noi stessi, ad esempio io non valgo, non sono inferiore, ho delle, eccetera, dopo un pochino diventano una specie di routine che agiscono a livello subconscio. Quindi prima sono consci, ma poi vanno a finire subconscio e continuano a girare come un programma dentro il computer, non si ferma. Questo programma, continuando a girare, produce delle sostanze chimiche. Queste sostanze chimiche, essendo cronicamente presenti nel corpo, influiscono sugli organi interni e producono le malattie fisiche o anche soltanto malattie di tipo emozionale, per accumuli emozionali. Poi che cosa fa? Il cervello osserva se stesso, quindi osservo le mie sensazioni, ma non attribuendo correttamente la causa ai miei pensieri automatici che non riconosco, li attribuisco ai fatti esterni della vita, mio marito, mio nonno, mio zio, mio partner, quello che c'è. Allora qui non è che la ricerca della causa effetto è sbagliata, è che noi cerchiamo le cause dove non ci sono, nel mondo esterno, e non cerchiamo là dove invece vanno cercate nel mondo interno, e in particolare nei pensieri automatici. Oggi le scienze cognitive non fanno che ribadire questo: la base della nostra mente sono i pensieri automatici, quello che crea il nostro carattere. D'altra parte, le scienze cognitive ci sono arrivate oggi, il Buddha ci è arrivato più di 2500 anni fa, quando diceva questa semplicissima frase: pensieri ricorrenti generano abitudini, le abitudini col tempo diventano il nostro carattere e il carattere col tempo diventa il nostro destino. Quindi pensiero, abitudine, carattere, destino. Aggiungi, sottinteso, pensieri, emozioni, perché nel buddismo si dice le emozioni sono causate dai pensieri, cioè dal modo in cui noi osserviamo la realtà. Quindi se lo osserviamo in un certo modo avremo un'emozione negativa o positiva, a seconda. Quindi all'origine di tutto, per poter cambiare la propria mente, occorre saper osservare in posizione di neutralità. Allora, soltanto allora diventiamo davvero capaci poi di vedere causa-effetto, altrimenti facciamo come i politici, che corriamo dietro l'ultima causa.